Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Gli ascoltatori più assidui di Mr. Kilowatt sono ormai quasi degli esperti di pompe di calore. Per tutti gli altri vale la pena di ricordare che si tratta di apparati tutto sommato simili a dei frigoriferi. Ogni frigorifero estrae calore dall'interno e lo riversa, anzi potremmo dire proprio lo pompa, all'esterno riscaldando l'ambiente, tipicamente la cucina. Nelle pompe di calore questa funzione di riscaldamento evidentemente è prevalente e sono perciò utilizzate appunto per riscaldare gli ambienti. Tuttavia, per funzionare le pompe di calore hanno bisogno di un serbatoio di calore anche a bassa temperatura, ma sufficientemente grande da sopportare l'estrazione del calore senza raffreddarsi troppo. Tipicamente tale serbatoio è costituito dal terreno oppure da una riserva d'acqua, quella di un lago oppure di una falda, ma può essere anche, volendo, l'aria esterna. Questi apparati sono molto efficienti in quanto riescono a restituire sotto forma di calore almeno il triplo dell'energia che consumano per funzionare. Ebbene, all'Area Science Park di Trieste è in corso un vasto progetto di efficientamento energetico che prevede diversi interventi realizzati con tecnologie sviluppate all'interno del parco. Tra questi troviamo la prima pompa di calore ad alta temperatura, una tecnologia che prenderà forma concreta entro fine anno e che supera uno dei principali limiti delle pompe di calore attualmente in commercio. Ci facciamo spiegare tutto da Giancarlo Michellone, che è presidente dell'Area Science Park. Buonasera Michellone. Buonasera. Allora, ci spieghi che cosa ha di speciale questo oggetto, questa pompa di calore, rispetto a quelle più comunemente diffuse? Sì, bene, innanzitutto vorremmo probabilmente uccidere il nome, vorremmo chiamarla meglio caldaia che non inquina. Perché caldaia? Perché supera il limite tipico delle pompe di calore normalmente in commercio, che riescono a produrre acqua calda fino a 60, massimo 65 gradi, temperatura troppo bassa per alimentare in modo ragionevole gli impianti normali di riscaldamento che ci sono nelle nostre città. Quelli più diffusi sono i termosifoni. Le pompe di calore sono adatte invece ai cosiddetti, per esempio, riscaldamenti a pavimento oppure a soffitto. Pavimento, soffitto e così via, no? La sfida vera è di riuscire a fare una pompa di calore che invece di arrivare a 60-65 gradi arrivi a 80-85, e noi crediamo di averla fatta. Ecco, come avete fatto? Abbiamo fatto una pompa di calore a doppio circuito, a doppio stadio. Alcuni altri hanno provato a farlo, c'è qualche giapponese, hanno avuto dei problemi, hanno, in genere usano dei fluidi un po' strani che probabilmente sono inquinanti. Invece quello che noi riteniamo di aver fatto, e lo proveremo a mesi, è una pompa di calore che costi molto poco, che sia veramente ecologica anche nei suoi componenti e che raggiunga le temperature per cui sarà una rivoluzione. Vogliamo fare il condominio clima, non soltanto più la casa clima. Ecco, benissimo, benissimo. Speriamo, qui in Italia ce n'è anche un po' di bisogno di questo tipo di iniziative. Sì. Quindi insomma avete una pompa di calore che si serve a sua volta da un'altra pompa di calore. Non potete entrare nei dettagli perché in questi giorni state proprio completando la brevettazione, vero? Sì, un po' in tutto il mondo. Ecco, di che cosa ha bisogno questo sistema per funzionare? Può funzionare con tutte le condizioni in cui tipicamente funzionano le altre pompe di calore? Quando saremo in paradiso sì, per adesso qualche limite ce l'ha. Okay. Il limite è che noi abbiamo bisogno che ci sia presenza di acqua, diciamo circa 2 litri al secondo, e questo vuol dire che va bene, comunque può avere un'enorme estensione di applicazione, perché in tutte le zone urbane o anche non urbane, ma parlo di condomini come di edifici storici piuttosto che scuole, serve là tutto dove c'è una qualche disponibilità di acqua. Acqua che può essere da fiumi, da canali sotterranei o affioranti, da pozzi, laghi, stagni, acquitrini, reti di acquedotti, collettori, fogne, eccetera, mare, no? Quindi noi riteniamo che ci sia un mercato potenziale che si rivolga perlomeno al 30% degli edifici esistenti. Senta, quali sono i tempi di rientro, quali sono i costi dell'investimento, quanto costa questa trappola, mi passi il termine, voglio dire, molto più di una normale caldaia? No, allora, in produzione stabilizzata deve costare meno di una caldaia, perché come lei sa una pompa di calore ha poi soltanto una specie di compressore e poco altro in movimento, è un fluido. Nel nostro caso invece di essere un compressore saranno due, ma finisce lì, quindi deve costare meno di una caldaia tradizionale. Noi i conti adesso li facciamo che all'incirca costi come una caldaia tradizionale, no? Anche perché poi comunque c'è una parte impiantistica per andare a prendere l'acqua, che non è... Guardi, facciamo un conto su un condominio standard 8-10 alloggi. Se una caldaia tradizionale costa 40.000 euro, questa costerà tra i 40 e i 50.000. Mm-hmm. Avrà 20.000 di costi di installazione accessori, no? Il pozzo o il collegamento. Però, e qui comincia il bello, costi per pratiche autorizzative non ci sono. Mm-hmm. Non consuma più metano, non consuma più altro. Quindi, se lo vediamo su 10 anni, il costo della produzione di calore, dai conti che abbiamo fatto, nel nostro caso 150.000 contro 260.000 della caldaia tradizionale. Payback viene 1,8-2 anni. Insomma, estremamente rapido. Se uno deve sostituire la caldaia e ha questa opportunità, diciamo che conviene orientarsi in questa direzione, senza indugio. Che tra le varie analisi delle varie sorgenti di energie alternative che abbiamo analizzato e sui quali siamo impegnati a lavorare, questa è quella che quasi con sorpresa, ma poi mica tanto per chi ci lavorava da anni, bombe di calore sono quelle che danno dei payback estremamente interessanti. Va bene, grazie Michellone. Buonasera, arrivederci. Bene, Mr. Kilowatt si chiude qui. Per chi fosse interessato, segnalo che sul sito di Schneider Electric, sponsor della trasmissione, trovate materiale di approfondimento su molti dei temi trattati. Come sempre, l'invito è a scrivere a mrkilowatt@radio24.it. Domani parliamo di come ridurre i consumi in un cimitero del 99%. Avete capito bene, 99%. Buona serata.